America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, una delle notizie dominanti in arrivo dagli Stati Uniti, come avrete visto dai giornali, televisioni, radio, riguarda la vicenda Fiat Chrysler e il possibile rischio che la EPA trovi delle incongruenze, delle illegalità nelle emissioni. Ma prima di affrontare questa tematica, questo argomento che è molto centrale, devo dire, abbiamo avuto una gran quantità di notizie ieri. Vorrei farvi una piccola carrellata, sentiamo. The Department of Justice Inspector General is announcing today that there will be a review of possible misconduct by the DOJ and the FBI leading up to the 2016 election. Ecco, cominciamo dall'FBI. Ricorderete tutti, mancavano 11 giorni alle elezioni americane. Hillary Clinton sembrava essere in vantaggio anche abbastanza buono. Certo, il gap al suo favore si stava progressivamente riducendo e poi, boom, fulmine a ciel sereno, l'FBI annuncia di aver avviato un'inchiesta su nuove email di Hillary Clinton. Questo annuncio di Comey, secondo alcuni, avrebbe cambiato il corso delle elezioni. Ebbene, l'ispettore generale del Dipartimento per la Giustizia americano ha annunciato ieri che si investigherà sulle motivazioni che hanno portato Comey a rendere pubblica questa nuova inchiesta sulle email di Hillary Clinton. Uno dei fatti da accertare è che non ci siano state motivazioni o spinte politiche, perché qualcuno sostiene che personaggi con addentellati all'FBI possono aver spinto perché le cose succedessero in un certo modo. E dunque questa inchiesta andrà avanti anche durante l'amministrazione Trump. Qual è il paradosso? Che se per caso l'inchiesta rivelerà che Comey ha commesso degli errori, sarà più facile per Trump licenziare colui che in qualche modo lo ha aiutato a vincere e sostituirlo con qualcuno di più vicino a lui. Sentiamo altra notizia. We also have to recognize reality and what Russia is up to, and there's a decreasing number of areas where we can engage cooperatively. Jay Mattis, candidato per il Dipartimento della Difesa, le audizioni continuano e Mattis ha detto testualmente che il pericolo peggiore per gli Stati Uniti è rappresentato dalla Russia. E il secondo, se non il terzo, ministro di Trump, che esprime una posizione diversa di quella da Trump. Cosa succede? Che ci sono delle linee diverse. Questa è la strategia forse di Trump. Le posizioni di questi signori, dei suoi ministri, sono diverse da quelle più possibiliste che esprime il leader, cioè Donald Trump. Vediamo se questa è una strategia e semplicemente uno scontro voluto di posizione diversa, oppure se si tratta semplicemente di confusione. Io non credo che ci sia confusione, io credo che ci sia una chiarezza di vedute. Rex Tillerson, candidato al segretario di Stato, anche lui aveva espresso delle posizioni dure nei confronti della Russia. Dunque c'è un'amministrazione che va prendendo forma e che sembra avere una parvenza di indipendenza rispetto al presidente. Amazon is hiring. The company is creating more than 100,000 new full-time jobs in the United States in the next 18 months. Amazon.com, il grande venditore sulla rete, ha annunciato ieri che da qui a un anno assumerà come salariati dipendenti, quindi nuovi lavoratori a tempo pieno, 100.000 persone, totale degli occupati 280.000 persone. Questo ci porta al cuore del tema centrale di oggi, e cioè, ma è vero che Barack Obama si sta levando dei sassolini dalla scarpa per rendere le cose più difficili a Donald Trump? Perché dico ci porta al quadro di oggi? Perché moltissimi giornali italiani, radio, televisioni, hanno interpretato l'accusa contro Fiat Chrysler da parte dell'EPA, l'Environmental Protection Agency, l'agenzia per l'ambiente americana, come una vendetta dell'ultimo istante di Barack Obama nei confronti di Marchionne. Intanto possiamo dirvi, l'abbiamo chiamato la Casa Bianca qui dal mio ufficio e la Casa Bianca ha smentito che ci sia qualunque collegamento con l'EPA, dice noi non sappiamo neanche che cosa stavano facendo. Queste sono delle cose tecniche, sono dei procedimenti tecnici e dunque agiscono come devono agire. In questo caso l'accusa, tra virgolette, è meno grave di quella che era stata portata alla Volkswagen. Non vorrei peccare di campanilismo citando il mio giornale, il Sole 24 Ore, ma il mio collega Andrea Malan ha fatto un articolo perfetto da questo punto di vista, cercando di fare il confronto con la Volkswagen. Siamo entrati nel contesto della dinamica economico-tecnica che ha portato l'EPA a prendere questa decisione e cercare di capire che cosa succederà. E dunque, vediamo di farlo con le parole stesse di Marchionne. Ho ascoltato ieri la sua conference call, dove abbiamo potuto parlare con l'amministratore delegato di FCA. Intanto, un errore in buona fede o in malafede? Sentiamo Marchionne. Noi non abbiamo fatto niente di sbagliato. Se l'abbiamo sbagliato per incompetenza tecnica o per zista. ma non è stato fatto niente, dico assolutamente niente per mettere in dubbio l'aspetto etico e morale di questa azienda. Ecco, Marchionne, come avete sentito, prende le distanze, si ritiene innocente, però il rischio, se le cose dal punto di vista dell'inchiesta non andranno bene, è quello di una multa per 4,63 miliardi di dollari. Ma sentiamo proprio Marchionne in una dichiarazione che può aver creato un po' di confusione in Italia. Noi andremo a risolvere il problema con la nuova amministrazione, con un set di persone completamente diverso da quello che adesso ha gestito il problema, e quindi ci ritroveremo di nuovo a riespiegare e cercare di analizzare tutto con una serie di persone completamente diverse. Ecco, Marchionne ha espresso frustrazione in questo caso perché? Ma perché stanno negoziando, lavorando con l'EPA da mesi? E dice, ma insomma, ma perché non ce l'hanno fatto prima? Magari avremmo chiuso tutto e non dovevamo ricominciare in teoria da capo. In realtà non credo che FCA debba ricominciare da capo, perché si tratta di un approccio tecnico. L'idea è che questo software non fosse un software, tra virgolette, maligno, cioè che cercava di mentire. Era semplicemente un software che in modo, tra virgolette, innocuo poteva non essere legittimo. E dunque, dice, avremmo potuto sistemare la cosa prima, invece adesso dovremmo ricominciare da capo con altre persone. Vi ripeto, fino a un certo punto, perché i funzionari che si occupano di queste cose restano. Questa non è una questione politica, ma è una questione tecnica, è una questione di business, e dunque io eviterei, come hanno fatto troppi dei nostri giornali, nel prendere posizioni dietrologiche in cui Obama si è voluto vendicare del fatto che Marchionne ha detto a Trump che apre un impianto in America invece di in Messico. Allora Trump è contento, fa un tweet a favore di Marchionne o comunque di FCA, allora Obama risponde facendo partire l'inchiesta dall'FBA. Ecco, questo è così un giornalismo molto romanzato, molto interessante, ma direi non è quello di cui dovremmo occuparci nel momento in cui si deve capire come andranno davvero a finire le cose. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vede più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo un'altra notizia fra le mille notizie di ieri. Ban Ki-moon, ex segretario generale dell'ONU, è rientrato in Corea. Ha lasciato il posto Antonio Guterres dal 1 gennaio, Guterres il nuovo segretario dell'ONU, ma in Corea Ban Ki-moon potrebbe anche correre per la presidenza, e dunque è stato un ritorno a casa denso di grandi interessanti auspici. E dunque, come canzone del giorno, vi propongo dei Radical Face, Welcome Home, bentornato a casa, con grandi auspici per Ban Ki-moon. So I choke on the sun, and the days blur into one in the backs of my eyes, all the things I've never done. Sheets are swaying from a home clothesline, like a row of captured ghosts or old dead crafts. There's never much, but New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!